Lorenzo e Alessia. Allora, il nostro progetto si basa sulla valorizzazione degli spazi esterni della scuola che si vedono in queste foto e il titolo già spiegherebbe un po', abbiamo due idee principalmente, il titolo spiega un po' già tutto del progetto, si tratta di un salotto espressivo delle risorse nascoste, questo perché non si tratta di altro che una sorta di effettivamente salotto realizzato con materiali trovati in giro o addirittura spesso si possono trovare in giro magari di divani abbandonati o che qualcuno ha buttato. Che comunque hanno ancora un po' di forza per essere utilizzati. Esatto, e si vuole concentrare sull'idea base di sfruttare quello che comunemente viene visto come uno scarto, come una invece una risorsa, e il fatto che sia di fronte a una scuola invece comunica anche tanto, nel senso che abbiamo voluto collegare questa cosa a proprio il fatto che spesso anche all'interno della scuola italiana c'è il bisogno di valorizzarsi da soli, da sé, e spinge quindi anche verso comunque vuole essere anche un invito motivazionale a non accontentarsi, a utilizzare la propria creatività per fare qualcosa di più. Infatti vuole essere anche un qualcosa di abbastanza interattivo che promuove sia l'inclusione sociale ma anche appunto il riutilizzo di materiali di scarto, e abbiamo voluto aggiungere quel tocco in più di espressione libera, perché ognuno è libero di portare sia i propri materiali, quindi magari dipingere all'aperto trattandosi di un artistico, ma anche appunto quel che si vuole, quindi senza trascurare nessun lato dell'arte, quindi anche una chitarra, cosa, mettersi sostanzialmente fuori nel prato e stare tranquilli, una zona in cui ci si può stare sereni. E mi sto dimenticando qualcosa? No. Io ho lavorato con loro, però sì? Sono rimasta. Tu chi sei? Eleonora. Ok. No, che a me è venuta in mente questa cosa, che abbiamo lavorato insieme, perché praticamente all'interno della scuola noi siamo abituati comunque a lavorare sotto indicazione dei professori, comunque ci danno delle direttive per quanto riguarda i lavori che noi dobbiamo fare. Non possiamo sporcare, comunque non possiamo dipingere sui muri. Per poter appendere le nostre opere ci è voluto tanto tempo, quest'anno siamo riusciti a appendere le cose in classe, ma magari l'anno scorso non si poteva fare. E quindi questa idea mi è venuta in mente soprattutto per questo motivo, perché almeno al di fuori della scuola possiamo fare un po' come vogliamo, come quando eravamo piccoli che giocavamo in cortile all'asilo e giocavamo con l'erba, con i fiori, insomma, siamo cresciuti così alla fine, perciò continuare a crescere in questo modo. Certo, mi sembra di capire che avete l'esigenza di avere degli spazi dove potervi esprimere liberamente, sì, e sì, non esatto, incanalati in quello che è, che con sono le possibili indicazioni che chiaramente il programma scolastico necessariamente, sì, esatto, vi dà. Con meno vincoli possibili. Ok, grazie. Grazie. Grazie mille.